mone, mayala. Ma folo mone, mayala. Ma folo mone, mayala. Mayala ne mone no mayala banda. Amo no no me. Amo no no me. Mafolo mone, mayala. Mafolo mone, mayala. Tobie kafube, tobie kosoe, tobie neve, mayala ne mone no mayala manda. Mashuna tovi neve. Wow, wow, wow, wow, wow. Mayala ne mone no mayala vanda. Amono no me. Amono no me. Amono no me.